Per mostrare il suo affetto verso i bambini, riferirò quanto mi dice in un'altra lettera. Tutte le volte che rivedrò Florence e Giulia mi sentirò come si sente un corteggiatore impacciato che vede da lontano la bella persona che lo attrae, alla quale nel suo imbarazzante timore non osa avvicinarsi. Questa è la più chiara idea che io possa darle del mio modo di sentire verso i bambini ai quali voglio bene ma per i quali sono un'estranea e per quali bambini non sono un'estranea. Mi sembrano piccole meraviglie, il loro conversare, il loro modo di essere sono per me occasioni di riflessione ammirata, perplessa. Quanto segue fa parte di una lunga lettera che ricevetti da lei in data 20 settembre 1851. Belle sono quelle frasi prese dai sermoni di James Martineau. Alcune di esse sono gemme purissime e genuine, idee concepite profondamente, espresse con finezza. Mi piacerebbe molto leggere la sua critica al libro della sorella. Degli articoli sui quali lei chiede il mio parere ho visto solamente quello notevole del Westminster sull'emancipazione della donna, ma perché lei e io dobbiamo pensare, forse dovrei dire piuttosto sentire, così esattamente allo stesso modo su molti punti che non può esservi discussione fra noi. Le sue parole su questo saggio esprimono anche il mio pensiero. È ben argomentato, chiaro, logico, ma c'è una grande lacuna. Di conseguenza irrita duramente ogni più delicata corda del cuore. Qual è questa lacuna? Penso di saperlo e mi arrischierò a descriverla. Penso che chi scrive dimentica che esiste qualcosa come l'amore disinteressato e la devozione. Quando lessi per la prima volta quel saggio, pensai che dovesse essere opera di una donna dalla mente potente e chiara, con un cuore severo e geloso, muscoli d'acciaio e nervi come nerbo di bue. Una donna che desiderava il potere e non aveva mai provato un sentimento d'affetto. Per molte l'affetto è dolce e la conquista del potere è indifferente, anche se a tutte piace esercitare un ascendente con successo. Sono sicura che J.S. Mill farebbe del mondo un luogo arido, lugubre e freddo, eppure si esprime con mirabile buonsenso nella maggior parte del suo articolo. Specialmente quando dice che anche se viene la donna un naturale disadattamento agli impieghi maschili, non è necessario fare leggi in proposito. Lasciate loro aperte tutte le carriere, lasciate che tentino, quelle di loro che ne sono capaci avranno successo, o perlomeno ne avranno avuta una giusta possibilità. Le incapaci ricadranno al rango che loro spetta. Egli similmente dirime il dilemma della maternità. Molto chiaramente, a farla breve, penso che la testa di J.S. Mill sia ottima, ma non mi sento disposta ad apprezzarne il cuore. Lei ha ragione quando dice che nella natura umana vi è un largo margine sul quale la logica non ha potere e sono lieta che sia così. Spedisco con questo corriere le pietre di Venezia di Ruskin e spero che lei e Meta vi trovino brani piacevoli. Alcune parti sarebbero asciutte e tecniche se non fosse per il carattere, per la forte individualità che pervade ogni pagina. Vorrei che Marianne fosse venuta a parlarmi alla conferenza. Mi avrebbe dato una così grande piacere. Quanto mi dice di quel folletto di Giulia mi diverte molto. Forse lei non sa che in essa vi è molto dell'indole modificata della sua mamma. Tuttavia penso che lo scoprirà quando la bambina sarà cresciuta. Non sarebbe un grave errore se Mr. Thackeray facesse la sua conferenza a Manchester in circostanze e condizioni tali da escludere persone quali lei e Mr. Gaskell dal numero degli ascoltatori. Anche a Londra il piano mi era sembrato limitato. Charles Dickens non limiterebbe in quel modo la sua sfera d'azione. Mi chiede di scriverle di me? Cosa dire su questo prezioso tema? La mia salute è abbastanza buona, le condizioni di spirito spesso non sono allo stesso livello, non succede niente. Spero e mi aspetto poca cosa in questo mondo e ringrazio il cielo di non colpirmi e farmi soffrire più di quanto faccia. Grazie per aver chiesto notizie della nostra vecchia domestica. Sta abbastanza bene. Lo scialletto, eccetera, le hanno fatto un grande piacere. Con i migliori saluti suoi e miei a lei e a Mrs. Ga e a Mr. Gaskell, mi creda sinceramente e affettuosamente sua, Charlotte Brown. Prima di giungere a un autunno molto avanzato, i soliti effetti della vita solitaria e della insalubre posizione della canonica di Haworth si presentarono sotto forma di cefalee, con nausea e dolori e dolorose notti, insonni e agitate. Ella non insiste su questo punto nelle sue lettere, ma vi si nota una totale assenza di gaiezza e occasionalmente un qualche accenno che implica assai più di molte parole. In tutta la canonica regnava la malattia, sotto forma di una ostinata influenza accompagnata da febbriciattola. Fisicamente era senz'altro la più forte della famiglia e tutta la fatica delle faccende domestiche per qualche tempo ricadde sulle sue spalle. A W.S. Williams, 26 settembre. Deponendo la sua lettera, dopo aver letto la chiara e viva descrizione di una scena che non può non colpire, mi fu impossibile non sentire con rinnovata forza una verità abbastanza trita e tuttavia sempre solenne, cioè che è bene per noi dover uscire da noi stessi, essere costretti a renderci conto da vicino delle sofferenze, delle privazioni, degli sforzi, delle difficoltà altrui. Se viviamo nella pienezza della soddisfazione, è bene ricordare che a migliaia di altri, che sono il nostro prossimo, tocca una sorte diversa. È bene che le simpatie addormentate vengano eccitate, che il letargico egoismo venga scosso. Se invece stiamo combattendo con uno speciale dolore, un'intima prova, una particolare amarezza che a Dio è sembrato opportuno gettare nella coppa della nostra esistenza, fa bene sapere che quanto ci è toccato in sorte non è eccezionale. Frena le parole e i pensieri di protesta e ci dà forza l'avere una chiara visione che nel mondo vi sono innumeri afflizioni e che ciascuna rivaleggia, altre invece sorpassano, la pena personale della quale siamo troppo pronti a dolerci esclusivamente. Tutti in quella folla di emigranti avevano i loro problemi. Le funeste cause della loro espulsione, lei, uno spettatore, aveva i suoi desideri e rimpianti, le ansie che alterano la felicità della casa, la domestica beatitudine, e il confronto potrebbe continuare e sempre sarebbe vero, sempre uguale. Una spina nella carne, un peso, un conflitto per tutti. Quanto questo stato di cose sia suscettibile di miglioramento grazie a opportuni cambiamenti nelle pubbliche istituzioni, nelle consuetudini nazionali, dovrebbe essere considerato a fondo, ma è un problema di non facile soluzione. I mali, quali lei li indica, sono grandi, reali ed evidenti. Il rimedio è oscuro e vago, tuttavia per le difficoltà che nascono da un eccesso di competitività, l'emigrazione dovrebbe essere una soluzione. Una nuova vita in un paese nuovo aprirà il cuore alla speranza. Un campo più vasto, meno popolato, aprirà la via a nuovi tentativi. Ma ho sempre pensato che una grande energia fisica, capace di esercizio e di perseveranza, è necessaria per un simile passo. Sono veramente lieta di sentire che si è imbattuto in uno scrittore originale. L'originalità è una perla di grande valore nell'opera letteraria, la più rara, la più preziosa rivendicazione che uno scrittore può avanzare. Le sue prospettive editoriali per la stagione entrante non sono abbastanza ricche e soddisfacenti. Mi chiede notizie di Currer Bell. A me sembra che l'assenza del suo nome dall'elenco delle pubblicazioni annunciate non dovrebbe lasciare alcun vuoto e gli sarà risparmiata la preoccupazione di pensare che sia bisogno di lui. Mentre non è certamente suo destino pubblicare per ora. Forse Currer Bell ha un segreto rimpianto in proposito, ma se ciò fosse lo terrebbe per sé. È un soggetto su cui non è necessario sprecare parole, visto che nessuna parola può cambiare la situazione. Dipende da lui e dalla condizione in cui si trova, dalle sue facoltà e dal suo destino. Mio marito ed io desideravamo molto che venisse ospite da noi prima dell'inverno, ma lei rispose quanto segue declinando l'invito. 6 novembre. Beh, se qualcuno avesse il potere di tentarmi a lasciar casa sareste voi, ma per il momento non posso lasciarla e non la lascerò. Mi sento molto meglio di quanto mi sentissi 3 settimane fa. Ho notato che stranamente, un mese, 6 settimane prima dell'equinozio d'autunno o del solstizio d'inverno, costituiscono un periodo che mi prova in modo speciale. A volte pesa mentalmente, altre volte fisicamente. Soffro di cefalee nevralgiche o sono abbattuta da una profonda depressione, tuttavia non tale che non la possa dissimulare agli altri. Confido che questo faticoso periodo sia passato per quest'anno. Ricorreva l'anniversario della morte del mio povero fratello e dell'inizio del tracollo della salute di mia sorella. Non ho bisogno di aggiungere altro. In quanto al fuggirmene da casa, ogni volta che ho una battaglia di questo genere da combattere, non sarebbe opportuno, tanto più che l'inquietudine mi seguirebbe. Liberarmene non è possibile. Ho rifiutato l'invito di Mrs. quello di Miss Martineau, e ora rifiuto il vostro, ma non pensi che getti via la sua affettuosa gentilezza e che essa venga meno al farmi il bene che desidera. Al contrario, il sentimento espresso nella sua lettera, dimostrato nel suo invito, va diritto là dove dovrebbe andare e mi risana, secondo il suo desiderio. La sua descrizione di Frederica Bremer collima esattamente con quella che lessi da qualche parte, non so più in che libro. Sono scoppiata a ridere quando sono arrivata all'elenco dei pregi personali di Frederica, citati da lei con sovrana semplicità, che per il mio gusto è quel che i francesi chiamerebbero impayable. Dove trova un forestiero che sia senza qualche piccola pecca di questo tipo? È proprio un peccato. Una visita di Miss Wooler in quel periodo fece un gran bene a Miss Bronte e la dichiara molto piacevole la compagnia dell'ospite, simile a un buon vino sia per suo padre che per lei. Ma Miss Wooler non si poté fermare a lungo e allora la monotonia della vita che conduceva le piombò addosso con tutta la forza. Gli unici avvenimenti delle sue giornate, delle sue settimane, consistevano nella piccola novità dell'arrivo di una lettera. Bisogna rammentare che le sue condizioni di salute erano spesso tali da impedirle di uscire di casa col tempo cattivo o nella stagione invernale. Era predisposta al mal di gola e a un penoso dolore al petto, la benché minima esposizione al freddo le dava difficoltà di respiro. Una lettera della sua ospite la commosse e la gratificò molto. Esprimeva semplicemente gratitudine per le attenzioni e la gentilezza che le avevano dimostrato. E finiva dichiarando che da molti anni non era mai stata tanto felice quanto durante i 10 giorni trascorsi a Haworth. Questa chiusa suscitò una sana sensazione di semplice piacere nella mente di Miss Bronte, che commentò: «Mi ha fatto bene». In una lettera scritta in quel tempo a un'amica lontana trovo un resoconto della sua visita a Londra. È troppo esteso perché lo si possa considerare una ripetizione di quanto ne aveva già detto e dimostra che le prime impressioni non erano superficiali e transitorie, ma resistevano alla prova del tempo e della riflessione. La scorsa estate trascorsi alcune settimane in città, come sai già, e vi udii e vidi molte cose che mi interessarono molto. Quello che rammento principalmente sono le conferenze di Mr. Thackeray, la recitazione di Mademoiselle Raquel, la predicazione d'Aubigné, di Melville e di Maurice e il Palazzo di Cristallo. Avrai letto nei giornali il resoconto delle conferenze di Mr. Thackeray. Sono state molto interessanti. Non ero sempre in sintonia con i sentimenti che vi esprimeva o con le opinioni cui accennava, ma ammirai la disinvoltura, davvero gentiluomo, il tranquillo umorismo, il gusto, il talento, la semplicità e l'originalità del conferenziere. La recitazione di Raquel mi trafisse di meraviglia. Inchiodò il mio interesse, mi fece vibrare dall'orrore. La forza tremenda con cui esprime le peggiori passioni nella loro essenzialità produce uno spettacolo eccitante quanto le corride spagnole o gli scontri dei gladiatori nella Roma antica, e mi sembra abbia lo stesso contenuto morale di quei pericolosi stimolanti della ferocia popolare. Quasi non è natura umana quella che vi mostra, è qualcosa di più selvaggio e di peggiore. Sono i sentimenti e la furia di un demonio. Indubbiamente hai il grande dono del genio, ma temo che ne abusi più di quanto non lo indirizzi a buon fine. I tre predicatori mi dettero grandissima soddisfazione. Melville mi è sembrato il più eloquente, Maurice il più impegnato. Se avessi possibilità di scelta, seguirei il ministero di Maurice. Sul Palazzo di Cristallo non ho bisogno di fare i commenti, se ne è parlato fin troppo. A tutta prima mi colpì solamente con una specie di vaga meraviglia e ammirazione, ma godendo un giorno del privilegio di visitarlo con un eminente concittadino, Sir David Brewster, e udendo dare col suo amichevole accento scozzese lucide spiegazioni su molte cose che fino a quel momento erano state per me un libro chiuso, incominciai a capirle un po' meglio, o perlomeno a capirne una piccola parte. Se i risultati finali saranno all'altezza dell'aspettativa, non lo so. La crescente indisposizione alla fine vinse, a dispetto di ogni sforzo della ragione e della volontà. Tentò di allontanare gli oppressivi ricordi dedicandosi allo scrivere. I suoi editori insistevano a chiedere un nuovo libro alla sua penna. Aveva incominciato a scrivere Villette, ma non riusciva ad andare avanti. Non è assolutamente probabile, scrive, che il libro sia pronto per la data indicata. Se la mia salute sarà risparmiata, lo porterò avanti quanto più rapidamente possibile, se non bene, perlomeno bene quanto mi riuscirà. Non prometto un briciolo di più. Quando l'umore mi abbandona, e per il momento mi ha abbandonata senza una parola o un messaggio che ne prometta il ritorno, metto da parte il manoscritto e aspetto. Dio sa che a volte devo aspettare a lungo, molto a lungo, mi sembra. Nel frattempo, se mi è concesso di farle una richiesta, eccola, per favore. Non dica nulla circa il mio libro finché non sarà finito in mano sua. Può darsi che non le piaccia. Io finora non mi sento soddisfatta di quanto ho scritto e tenga presente che gli scrittori sono sempre teneramente indulgenti, a volte perfino parziali verso le loro creature. Sono convinta che il parlare con grande anticipo di un lavoro effimero qual è un romanzo, come se si trattasse di un capolavoro, sia rovinoso per il suo successo. La gente è propensa a concepire, o perlomeno a professare in proposito, esagerate aspettative quali nessuna realtà può eguagliare. Allora segue la delusione, e quale debita vendetta la stroncatura e il fallimento. Se quando scrivo dovessi pensare ai critici che, lo so, sono appostati in attesa di Carrer Bell, pronti a spezzargli le ossa, la mano mi ricadrebbe paralizzata sulla scrivania. In ogni modo, io posso fare solamente del mio meglio e poi nascondere il capo nel manto della pazienza, sedere ai suoi piedi e aspettare. Il triste umore di cui ella parla nelle righe qui sopra non sparì, aveva un'origine fisica, difficoltà di digestione, nausea, cefalea, insonnia, messe insieme, contribuivano a provocare una triste depressione. Un fatto occorso in quel tempo non contribuì certamente a tirarla su. Il povero vecchio Keeper, il fedele cane di Emily, morì. Era giunto alla canonica nella fiera forza della gioventù, scontroso e feroce, aveva trovato un degno padrone nell'indomabile Emily. Come molti cani della stessa indole, aveva temuto, rispettato e profondamente amato la sua domatrice. Aveva sofferto per la morte di lei, con la patetica fedeltà della sua razza, invecchiando precocemente. E ora la sorella scriveva: «Il povero vecchio Keeper è morto». Nella mattinata di lunedì scorso, dopo una sola notte di malattia, si è addormentato quietamente. Abbiamo sepolto la sua vecchia spoglia in giardino. Flossie, il vecchio cane dal pelo riccioluto, è triste, ne sente la mancanza. La perdita del povero cane è stata una cosa profondamente triste, tuttavia sono lieta che abbia incontrato un destino naturale. La gente andava suggerendo che lo si sarebbe dovuto uccidere, cosa alla quale né papà né io volevamo pensare. Quando Miss Bronte scrisse quanto sopra l'8 dicembre, soffriva per un brutto raffreddore e accusava delle fitte al fianco. La malattia si aggravò e il 17 dicembre lei, così paziente, silenziosa e tollerante, così timorosa di cagionare disturbo agli altri, dovette chiamare l'amica e in aiuto. Al momento non posso venire da te, ma vorrei che, se a te fosse possibile, tu venissi da me, anche solamente per pochi giorni. A dire la verità, sono stata piuttosto male fin dallo scorso mese. Ho continuato a sperare di tirarmi su, ma alla fine sono stata costretta a ricorrere a un dottore. A tratti mi sentivo debolissima e completamente a terra e desideravo una compagnia, ma non sapevo decidermi al gesto egoistico di chiederti di venire solamente per sollevarmi. Il dottore si pronuncia in modo incoraggiante, ma io non mi sento meglio. La malattia, affermata con un lungo, progressivo processo, non può, credo, venire debellata in 4 e 4 8. Non sono costretta a letto, ma sono debole, priva di appetito da quasi 3 settimane e le notti sono brutte. So perfettamente che una continua, estrema depressione è responsabile per la mia presente malattia e so che un po' di serena compagnia mi farà meglio di molti galloni di medicina. Se puoi venire, vieni venerdì. Scrivimi domani dicendo se ti è possibile farlo e a che ora giungerai a Chifley, di modo che possa mandarti il calesse. Non ti chiedo di rimanere a lungo, ti chiedo solamente alcuni giorni. Naturalmente l'amica andò e un certo beneficio derivò dalla sua compagnia, sempre tanto gradita. Ma il suo male era ormai troppo profondamente radicato per poter trovare più di un temporaneo palliativo nella serena compagnia che aveva implorato in modo così toccante. Una ricaduta si produsse dopo breve tempo. Fu gravemente ammalata e le medicine di cui fece uso ebbero un insolito effetto sulla sua debole costituzione. Mr. Bronte era disposto Desolatamente ansioso per le condizioni in cui versava l'ultima figlia rimastagli, che ridotta all'ultimo stadio di debolezza non riusciva a prendere cibo da una settimana. Ella si riprese un po' e il suo unico sostegno fu una mezza tazza da tè di liquido somministrato a cucchiaini lungo le 24 ore della giornata. Tuttavia si alzò dal letto per amore del padre e lottò in paziente solitudine durante le ore peggiori. Mentre si stava rimettendo, il suo morale abbisognò di sostegno, perciò cedette alle suppliche dell'amica e andò ospite da lei. Durante tutto il tempo della malattia di Miss Bronte, Miss aveva desiderato recarsi da lei, ma Charlotte aveva rifiutato di approfittare di quella gentilezza dicendo che le era sufficiente essere di peso a se stessa e sarebbe stato desolante importunare un'altra persona. E anche nel periodo peggiore, racconta all'amica con arguta allegria quanto freddamente fosse riuscita a impossessarsi di una lettera di Miss a Mr. Bronte, che sospettava atta ad aumentare l'allarme di questi circa le proprie condizioni, e indovinandone immediatamente il tenore ne fece sparire il contenuto. Per fortuna Mr. Bronte stava meravigliosamente bene quell'inverno. Il buon sonno, il buon umore e un eccellente costante appetito era indice di vigore e, stando così le cose, Charlotte poté lasciarlo per andare ospite dall'amica per una settimana, senza provare grande preoccupazione. Trasse grandissimo beneficio dalle attenzioni e dalla lieta compagnia della famiglia che la ospitava. Non si interessavano affatto a lei come Carabel, ma continuarono a volerle bene, come avevano fatto per anni come Charlotte Bronte. Per loro la debolezza dovuta alla cattiva salute era semplicemente un motivo in più per volerle bene. Per voler bene alla piccola solitaria che avevano conosciuta quando era una scolara orfana di madre. Miss Bronte mi scrisse verso quel tempo raccontando qualcosa di quanto aveva passato. 6 febbraio 1852. Certamente lo scorso inverno è stato uno strano periodo. Se avessi di fronte a me la prospettiva di viverlo nuovamente, la mia preghiera sarebbe: fa che questo calice si allontani da me. La depressione mentale che pensavo di avere superata quando le scrissi l'ultima volta ritornò pesantemente. Ne conseguì una congestione interna che provocò un'infiammazione. Provai forti fitte al fianco destro, frequenti arsure e dolori di petto. Il sonno quasi mi abbandonò o rifiutò completamente di venire, se non accompagnato da sogni orribili. L'appetito scomparve e una febbriciattola fu mia costante compagna. Passò un po' di tempo prima che mi risolvessi a ricorrere ai consigli di un medico. Pensavo che fossero ammalati i polmoni e non avevo fiducia nelle possibilità della medicina. Quando finalmente un dottore fu consultato, dichiarò che il petto e i polmoni erano sani e attribuì tutte le mie sofferenze a disturbi di fegato, organo sul quale a quanto sembra era caduta l'infiammazione. Questa diagnosi fu di grande sollievo per il mio caro padre, lo fu anche per me, ma mi dovetti sottomettere a una dura disciplina e dimagrii molto. Benché non stia ancora bene del tutto, è con profonda gratitudine che posso dire di stare molto meglio. Sembra che il sonno, l'appetito e le forze siano sulla via del ritorno. Le condizioni di salute di Miss Bronte dopo la grave crisi attraversata continuarono a essere tali da impedirle per molte settimane di applicarsi allo scrivere come avrebbe voluto. Nei pochi avvenimenti che suscitarono il suo interesse in quel tempo non vi fu granché che la potesse rallegrare. In marzo fu informata della morte di una persona trasferitasi in colonia, che era stata legata da vincoli di parentela con una sua amica, e intravediamo quale fosse il parallelo timore che le rodeva il cuore. La notizia della morte di E mi è giunta la scorsa settimana in una lettera di M. Una lunga lettera che mi ha talmente stretto il cuore con la sua forte, semplice e sincera commozione che mi sono avventurata a leggerla una sola volta. Ha riaperto con violenza ferite appena rimarginate. La descrizione della morte era proprio la stessa, il respiro che viene meno, eccetera. Ora teme di diventare nella sua triste solitudine una donna dura, amara, egoista. Questo timore è giunto a segno. Ripetutamente l'ho provato anch'io, e qual è la mia situazione rispetto a quella di Marta? Possa Dio aiutarla come solamente lui può fare. Con ripetuta insistenza l'amica le consigliava qualche svago, né mancavano inviti che le avrebbero permesso di farlo quando queste crisi di profonda depressione la tormentavano troppo nella sua solitudine. ma non volle concedersi alcuna indulgenza del genere, se non era assolutamente necessaria la sua salute. Temeva ricorso a stimoli quali il cambiamento di ambiente e di compagnia a causa della reazione che invariabilmente seguiva. Fin dove poteva vedere, la sua vita era destinata alla solitudine, e a lei toccava sottomettere la sua natura alla sua vita, e se era possibile, con armonia. Quando era occupata a creare, tutto andava abbastanza bene. I suoi personaggi le tenevano compagnia nelle quiete ore che trascorreva in totale solitudine, spesso impossibilitata a fare un passo oltre la soglia di casa. L'interesse per le creature immaginarie compensava l'assenza di interessi nella sua vita. Memoria e immaginazione trovavano il lavoro adatto e cessavano di devastare le sue energie. Ma troppo spesso non era in condizione di scrivere, non vedeva i familiari, non poteva parlare, la fitta nebbia della cefalea li aveva inghiottiti, era come se non esistessero. Queste furono le condizioni durante tutta quella primavera e per quanto ansiosi fossero i suoi editori, Villette non avanzò di una sillaba. Perfino le lettere all'amica sono poche e brevi. Qua e là vi trovo una frase che si può estrapolare e che merita di venire conservata. La lettera di M è molto interessante. Mette in luce una mente che non si può non ammirare. Confronta la sua forza serena e fiduciosa con l'irresoluta dipendenza dagli altri della povera, quando quest'ultima godeva di una felicità senza macchia. Non ricordo che questo sentimento si sia mai concretizzato in espressioni di gratitudine a Dio. Vi era anzi una continua richiesta di simpatia a causa della mancanza di fiducia nella durevolezza di quello stato. M è credente, la sua fede è riconoscente, grata e pacifica, anche mentre è felice quanto si preoccupa per gli altri. 23 marzo 1852. Dici, cara E, che spesso vorresti vedermi chiacchierare sulla carta come fai tu? Come potrei? Dove trovo il materiale? La mia vita è forse fertile in argomenti di chiacchiera? Che visitatori vedo, che visite faccio? No, tu devi chiacchierare e io devo ascoltare e dire sì e no, e grazie per quei 5 minuti di ricreazione. Mi diverte l'interesse che prendi alla politica, non aspettarti di suscitarlo in me. A me tutti i ministeri e tutte le opposizioni sembrano su per giù uguali. Disraeli è stato fazioso come capo dell'opposizione, Lord John Russell sarà fazioso ora che si trova nei panni di Disraeli. L'amore e lo spirito cristiano di Lord Derby valgono 3 centesimi di mezzo penny. A W. S. Williams, 25 marzo 1852. Caro signore, Mr. Smith non molto tempo fa accennò una mezza intenzione di pubblicare una seconda edizione di Shirley. Avendo riveduto il lavoro, le accludo gli errata. Ho fatto anche partire oggi per ferrovia una cassetta di libri che restituisco. Avrei già dovuto da lungo tempo dichiarare l'intenso piacere con cui ho letto Donne della Cristianità di Miss Cavanaugh. La sua carità e la sua imparzialità nell'insieme sono bellissime. È vero che tratta con tocco troppo leggero il tema di Elisabetta di Ungheria e inquadra con poca esattezza il fatto che le opere caritatevoli protestanti sembrino meno numerose di quelle cattoliche. Dimentica, oppure non sa, che il protestantesimo è un credo più sobrio del cattolicesimo romano. Come non veste il suo clero di scarlatto, così non propone le sue donne virtuose per la santità, non ne canonizza i nomi e non propaganda le loro opere buone. Forse nei registri umani le somme che danno in carità non si troveranno annotate, ma anche il cielo tiene i suoi conti, come lo fa la terra. Con i più sinceri saluti a lei e alla sua famiglia, che voglio sperare abbia attraversato sana e salva il duro inverno passato, come pure i venti dell'est, che ancora stanno mordendo la nostra primavera nello Yorkshire. Sono, caro signore, sinceramente sua, Charlotte Bronte. Una lettera scritta alla compagna di scuola del tempo di Bruxelles ci dà un breve quadro del difficile inverno attraversato. Haworth, 12 aprile 1852. Ho lottato per tutto l'inverno e nella prima parte della primavera, spesso con grande difficoltà. La mia amica mi ha tenuto compagnia per alcuni giorni all'inizio di gennaio. Non ha potuto dedicarmene di più. Durante la sua visita sono stata meglio, ma subito dopo ho subito una ricaduta che ridusse moltissimo le mie forze. Non si può negare che la solitudine in cui vivo aggrava spaventosamente tutti i mali di cui soffro. Vi sono stati alcuni giorni e alcune notti di tempesta durante i quali ho desiderato sostegno e compagnia più di quanto le parole possano dire. Giacqui una notte dopo l'altra, senza sonno, ben sveglia, debole, incapace di far nulla. Sedetti in poltrona giorno dopo giorno, con i più tristi pensieri come unica compagnia. Ah, non dimenticherò mai quel periodo. Ma Dio lo mandò, dunque deve essere stato per il meglio. Ora sto meglio e mi sento più che grata per il ritorno di una salute abbastanza buona, ma siccome ci deve essere sempre una qualche afflizione, papà, che durante tutto l'inverno godette ottima salute, ora soffre del solito attacco di bronchite primaverile. Spero che presto evolverà nella forma attenuata in cui fino a questo momento si era sempre presentata. Non dimentico di rispondere a quanto mi chiedi sulla cataratta. Dì a tuo padre che il mio aveva 70 anni quando si sottopose all'operazione. Era assai riluttante a tentarla, non riusciva a credere che alla sua età e data la sua debolezza sarebbe riuscita. Ho dovuto essere molto decisa e agire interamente sotto la mia responsabilità. Oggi sono passati quasi 6 anni da quando la cataratta è stata estratta, non era semplicemente caduta. In tutti questi anni non ha mai rimpianto il passo compiuto e raramente passa giorno senza che gli esprima gratitudine e piacere per il recupero dell'inestimabile dono della vista di cui per un certo tempo conobbe la privazione. In una delle mie lettere avevo dato a Miss Bronte un sunto del romanzo che stavo scrivendo e mi rispose così: il sunto che mi dà del suo lavoro, rispetto al quale naturalmente mantengo il silenzio, mi sembra molto nobile e il risultato potrà essere tanto utile nella pratica quanto è stato elevato e giusto nella teoria. Un simile libro potrà ridare speranza e energia a molte che pensavano di aver perso il diritto a entrambe e indicare una chiara via di onorevole impegno a certune giunte alla convinzione di aver perduto per sempre l'onore in questo mondo. Tuttavia, ascolti la mia protesta. Perché lei deve morire? Perché dovremmo chiudere il libro piangendo? Il cuore mi viene già meno al pensiero del dolore che lo aspetta. Tuttavia bisogna seguire il dettato dell'ispirazione. Se questa comanda l'olocausto della vittima, nessun astante ha il diritto di sporgere la mano per fermare il coltello sacrificale, ma la ritengo una severa sacerdotessa in questa questione.